Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Per la regolazione del traffico ferroviario le informazioni relative alla posizione in tempo reale dei treni sono cruciali. Più sono precise e tempestive, più i treni possono viaggiare vicini tra loro, che significa aumentare la frequenza delle corse. E più agile è lo snellimento del traffico nelle stazioni nelle ore di punta. Per questo al distretto trasporti e logistica della Campania si sta lavorando alla messa in campo di sistemi satellitari per estendere e migliorare la geolocalizzazione dei treni. Per parlarcene, Federico Pedrocchi, durante lo scorso Smau Napoli, ha incontrato Nicola Mazzocca, che dirige il Dipartimento di Ingegneria Elettrica della Federico II e fa parte del Comitato di Coordinamento del Distretto. Sentiamo. Quello che cambierà sarà il fatto che le infrastrutture di terra, cioè quelle che servono a localizzare il treno, saranno ovviamente più possibile gestite da sistemi satellitari. Questo comporterà una serie di vantaggi sia in termini di installazioni sia in termini di gestione dei sistemi, che consentiranno ovviamente di migliorare la localizzazione dei treni e anche la conoscenza sulle infrastrutture, sui binari che in qualche modo possono subire dei deterioramenti. Quindi dall'alto noi sapremo sia dove sta il treno. Ecco, ma già adesso noi sappiamo, no, esattamente, forse esattamente no, dov'è il treno. Il problema è che con la geolocalizzazione questa precisione sarà molto più elevata? La precisione probabilmente sarà più elevata perché si utilizzeranno sensori di natura differente, quindi sia sensori di terra che sensori di cielo per avere una migliore posizione. Però il punto principale sarà che noi oggi per fare questo siamo costretti a mettere sul binario delle boe, cioè dei sistemi di localizzazione, che ovviamente complicano la gestione e soprattutto non rendono molto spesso i nostri progetti esportabili all'estero. Perché il nostro materiale ferroviario, se va all'estero, incontra delle strutture di gestione che sono più avanzate delle nostre? No, perché in qualche modo le infrastrutture che noi abbiamo in Italia o che abbiamo in Europa presuppongono delle ipotesi di funzionamento con dei sistemi anche da terra. Volendole esportare ad esempio in Asia, in Africa, negli Stati Uniti, dove queste ipotesi non sempre possono essere mantenute, è ovvio che il sistema ferroviario consente di essere installato con minore impiego di infrastrutture terrestri. È importante pensare che questo consente anche di lavorare con tratte di tanti chilometri come negli Stati Uniti, dove ci sono anche treni merci, i quali non sono nei locomotori sempre elettrificati, e quindi la loro localizzazione e la posizione sui binari va fatta appunto con tecniche diverse. Vediamo un attimo questo aspetto, cioè i treni oggi a quanto devono stare uno distante dall'altro? In realtà i treni hanno una distanza che è data da alcuni fattori di blocco, che ovviamente è nell'ordine di un paio di chilometri. Mi pare di capire che sull'alta velocità, che ha delle linee dedicate, abbiamo già oggi una vicinanza fra i treni decisamente elevata. L'opportunità invece è che con il sistema satellitare tutto il sistema ferroviario viene ad essere percorso con treni uno più vicino all'altro. Sì, in qualche modo l'idea fondamentale è che un'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica cambia sia la modalità di gestione, sia la modalità di manutenzione, ma soprattutto la possibilità di estendere a tutto il sistema ferroviario criteri di velocità e sicurezza che oggi sono proprie solo delle tratte più importanti. Mi pare che un punto importante anche di questa gestione che consente maggiore vicinanza fra treni, quindi più trasporto, sia cruciale anche per quelle zone molto critiche che sono per esempio le stazioni nelle quali ogni mattina arrivano decine e decine di treni pendolari, e lì ci sarebbe bisogno di avere una maggiore frequenza. Ecco, diciamo che il concetto della localizzazione si lega a due aspetti che sono importanti per i pendolari. Da un lato pensare di avere anche sulle tratte periferiche maggiori livelli di prestazione, anche se questo necessita poi anche dell'adeguamento dei treni, no? Proprio certo. Delle strutture. Dall'altro, secondo me, c'è anche un concetto reale di gestire sistemi di infomobilità, no? Sempre più attraenti per l'utenza, che in realtà significa avere più informazioni sul posizionamento, sui reali stalli dei treni e sulle reali posizioni, che ovviamente daranno anche delle informazioni per poter poi decidere all'utente il trasporto in termini di multimodalità, gomma, treno, certo. Sistemi metropolitani e quant'altro. Ci sarà qualcuno che dice, ma quando poi per esempio sulla tratta Bologna-Firenze si entra in una galleria continua, ci sarà sicurezza del collegamento satellitare? Ecco, io diciamo che il sistema ferroviario è uno dei sistemi più sicuri perché è più standardizzato dal punto di vista dei livelli di SIL. SIL sono i System Level Integrity, cioè quindi i sistemi di integrità, e quindi è sempre garantito in ogni punto che in qualche modo il sistema sia sicuro. Quindi è ovvio che all'interno delle gallerie i sistemi di localizzazione utilizzeranno anche dei sensori di terra. Prima di lasciarci vi ricordo che tutte le puntate di Smart City sono disponibili in podcast sul sito di Radio 24. Vi ricordo che la nostra mail è smartcity@radio24.it. Potete contattarmi anche su Facebook, mi trovate col mio nome Maurizio Melis.